c'era un po' la crema dell'imprenditoria italiana in Brasile, era una platea abbastanza ristretta di una cinquantina di imprenditori selezionatissimi e sì, insomma, come fa lui di solito, ecco, un po' così per alleggerire, suscitando l'irrealità di tutti, ha raccontato la barzelletta della cameriera. Per la verità non l'ha presentata così. Ha detto: vedete, io sto invecchiando, mi dimentico le cose, tanto che stamattina mi volevo fare una ciulatina con la cameriera, con la cameriera dell'albergo, e lei mi ha detto: ma presidente, l'abbiamo già fatto un'ora fa. E questa è stata, quindi non l'ha presentata esattamente come una barzelletta. Cioè, l'ha presentata così, come se potesse essere verosimile la storia? Esattamente. E la reazione qual è stata? Beh, chiaramente sono tutti messi a ridere, compresi noi giornalisti. Tanto che mi era venuto quasi il sospetto che lui non sapesse che fossimo lì, perché era talmente plateale, era talmente grande, sì. Però poi in realtà poi ho scoperto che invece lo sapeva benissimo, quindi diciamo anche l'effetto era calcolato. Ha raccontato che c'è la fila di ragazze, adesso che è single, che è tornato single, c'è la fila di ragazze che lo vogliono sposare, e dice lui: si capisce che vogliono sposarmi, sono simpatico, sono ricco, ma soprattutto sono vecchio, e sperano che muoia presto, così ereditano tutto.